Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, Italia. Come ogni mercoledì, più o meno, diciamo alle 10.30, più o meno sempre, inizia Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. E come sempre Città Fujiko Live Club inizia con una novità, e quest'oggi non è da meno. La novità di oggi è appannaggio di una band americana, una band appartenente al cosiddetto genere sudista, e infatti è stata fondata a Jacksonville in Florida nel 1974 da Don Barnes, che suona la chitarra, e da Donny Van Zant, che è il cantante. Se questo nome vi ricorda qualcosa, Donny, con la D, è il fratello di Ronnie Van Zant, che era il cantante delle Nesca Nerd, purtroppo deceduto nel famoso incidente aereo nel quale persero la vita 4 dei musicisti più alcuni dei, un paio di roadies delle Nesca Nerd nel 76. Sto parlando di una band che si chiama tuttora 30A Special, anche se uno dei fondatori, vale a dire Van Zant, Donny, ha lasciato la band nel 2013 per alcuni problemi di salute. È rimasto l'unico membro originale, Don Barnes, anche se in realtà per qualche anno, esattamente dall'87 al 1987 al 1992, ha lasciato la band, poi è tornato ed è tuttora l'unico membro originale rimasto. Ci sono stati un sacco di cambiamenti di personale in questi quasi 50 anni, e però loro sono partiti, diciamo onestamente, come clone delle Nesca Nerd, poi hanno preso una deriva molto heavy, molto dura, molto più aggressiva rispetto ai loro idoli, anche se anche loro non è che scherzassero in quanto a potenza, e quindi si sono lasciati un po' andare, anche se rimane sempre un'ottima band. La novità che vi propongo quest'oggi è la loro ultima uscita discografica live, si chiama Live at Rock Palace 1981, registrata appunto per questa trasmissione televisiva tedesca, del quale parleremo dopo, che da anni, tantissimi anni, dal 74, programma concerti in TV, una delle tipiche, anzi una delle trasmissioni che più mancano qua in Italia, quella di trasmettere concerti interi costantemente, soprattutto senza che nessuno ci parli sopra e dica spari cazzate a raffica. Ma questo è un discorso che magari affronteremo più tardi. Questo album, lo ripeto, si chiama Live at Rock Palace 1981, è stato registrato a Loreley nel corso del Test Open Air Festival, che anche in questo caso va in onda sulla radio che si chiama WDR e che è organizzato da coloro che organizzano anche il Rock Palace, il tutto il 29 agosto del 1981. Il pezzo che ho scelto per voi è uno dei grandi classici di questa band, si chiama Stone Cold Believer, loro si chiamano 30A Special, 38 Special. Put your hands up! Si chiamano ancora City Special, anche se, come dicevo in precedenza, l'unico membro originale rimasto dal 1974 è Don Barnes, con una piccola parentesi in quale lasciò la band, ma è ritornato poi nel 1992. Il pezzo è stato registrato a Lorelei in Germania, una location splendida, a quanto mi dicono, purtroppo non ci sono mai stato. Era il 29 agosto del 1981 ed è compreso in questo dischetto che si chiama Live Rock Palace 1981. Un dischetto che in realtà è un combo, c'è il CD e c'è anche il DVD. E vi dicevo di Rock Palace, una trasmissione televisiva che viene irradiata da una televisione tedesca che si chiama WDR, fin dal 1974, quindi un bel po'. Inizialmente era una trasmissione che programmava live in studio con il pubblico, poi hanno abbandonato lo studio e vanno in giro per tutta la Germania a programmare i migliori concerti del momento. Peter Ruckel, che è il produttore da sempre di questa benemerita trasmissione, è fra l'altro coinvolto nell'organizzazione di diversi festival in Germania, tipo appunto quello di Lorelei che ci siamo appena ascoltati. Oltre a produrre, diciamo, le trasmissioni televisive, ogni tanto il buon Ruckel prende uno dei concerti che ha trasmesso e lo pubblica come CD o come abbiamo visto CD e DVD. E ce ne ascolteremo alcuni in questa prima parte della trasmissione, ad iniziare da quello che è un vinile, un 10 pollici. Per i più giovani dirò che è quella misura che sta a metà fra il long play e il singolo, il 45 giri. Il long play è 12 pollici, il singolo 45 giri è 7 pollici, in mezzo ci sta il 10 pollici, che è una cosa abbastanza rara, ma che viene fatta come novità, diciamo, all'interno delle discografie dei vari gruppi. Qui abbiamo un gruppo che viene considerato svedese, ma in realtà soprattutto nel primo line-up comprendeva due americani, una svedese e un francese. Loro si chiamano Blues Pills, hanno già cambiato diversi musicisti. Direi che l'unica che è rimasta è la cantante Ellen Larson, e che fanno dell'ottimo rock blues, un po' anche loro un po' pesantito. Sono di stanza in Örebro, spero che si pronunci così, che è una cittadina svedese, e da lì poi si muovono soprattutto per tutta Europa per i loro concerti. Il 18 ottobre del 2013 erano in concerto a Bonn, nell'ambito del Crossroad Festival, un altro dei festival che è prodotto da Peter Ruckel, il personaggio che vi dicevo prima, e fra le altre cose c'era questo, anzi prima voglio dire che il 10 pollici comprende 4 brani, 2 nella prima facciata e 2 nella seconda, un piccolo inciso. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Little Sun, loro sono Blues Pills. Due voci femminili per iniziare questa piccola rassegna dedicata a Rock Palace. La prima era quella di Elin Larson, la cantante dei Blues Pills. Questa invece è Joyce Baby Jean Kennedy. Anche in questo caso l'unico membro originale di questa band che arriva da Atlanta, che è attiva dal 1972 e che si chiama tuttora Mother's Finest. Nel loro caso abbiamo due concerti, un album doppio con due concerti registrati appunto a Rock Palace, il primo nel 78 e il secondo nel 2003. Per voi ho scelto il primo, con questo brano che si chiama Fire, che è stato registrato alla Grugenhalle di Essen, appunto in Germania. Tutte le cose che ci ascolteremo e che sono programmate in Rock Palace sono più o meno tutte provenienti dalla Germania. Era il 4 marzo del 1978. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. E qualche giorno prima dei Sirius Special, titolare della novità che vi propongo quest'oggi, registrata a Rock Palace il 29 agosto dell'81, 1981 of course, e invece pochi giorni prima, il 19 agosto, erano in scena sempre a Lorelei, sempre all'Open Air Festival, i Nine Below Zero, grande band di rock blues britannica da tantissimi anni sulle scene, sempre con grandissimo successo, e Dennis Greaves, anche in questo caso un solo membro non originale, perché in realtà adesso ce ne sono due, ma lui è stato sempre l'unico membro originale costantemente nella band, praticamente nel leader, diciamo. Li ho conosciuti personalmente, per fortuna, al Castel San Pietro in Blues Festival nel 2009. Sono veramente dei personaggi molto alla mano, molto bravi e molto molto molto socievoli, diciamo. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un box set, addirittura sono tre CD più due DVD che comprendono due concerti, uno dell'agosto del 1981, che è quello che ci andremo ad ascoltare, e l'altro del giugno del 1996. Don't Point Your Finger at the Guitar Man è stato registrato appunto il 19 agosto del 1981 e loro sono Nine Below Zero. This is a bit of movie, it's called Don't Point Your Finger! Yeah, don't point your finger at the guitar man. Well, it's not his fault, he got to lose jail. He was there, he was leaving on that sundown. You're too low when that man's around. Don't point your finger at the guitar man. It's the coolest cat in the farmer's land. All the girls hang around here and out at school. So play his record, it's against the rules. Every time I hear that jukebox rock, listen to the radio. I get a message down in my feet to box. The people just want to say, whoa! Don't point your finger at the guitar man. Don't point your finger at the guitar man. No, don't point your finger at the guitar man. Don't point your finger at the guitar man. No, don't point your finger at the guitar man. Don't point your finger at the guitar man. No, go! Thank you! One, two, three, four. Walking with gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there, there's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? If my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. The night when I go to all the parties down my street, I wash my hair and I kid myself I look real smooth. Look over there, Jenny with a new boyfriend. They say the looks don't count for much, and so there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? If my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Looks kill, kill. There's a man there who's my girl is dead, 'cause I've had my fill. Listen, you take your hands from her head. I get so mean around this scene. Whoa. See me, there's something going wrong around here. Something going wrong around here. Something going wrong around here. Uno strano rapporto di amore e odio, odio fra virgolette naturalmente, nei confronti di Joe Jackson che ci siamo appena ascoltati. Amore perché ha dei pezzi bellissimi tipo questo che ci siamo ascoltati, Is She Really Going Out With Him, che abbiamo ascoltato in innumerevoli versioni. Questa è la versione a cappella e odio perché spesso e volentieri dichiara che il rock è morto e che e poi va avanti con delle esperienze musicali che hanno toccato anche la musica classica, però appena il conto si abbassa o va in rosso ritorna alla musica rock, per cui si vede che proprio morta non è. Il brano che ci siamo ascoltati arriva da un concerto di Rock Palast, naturalmente del 1983 alla Grugenhalle di Essen, e fa parte di un doppio CD che comprende tre show registrati da Joe Jackson per questa mega e amatissima trasmissione. Il primo appunto dell'83, che è quello che ci siamo ascoltati, poi ne abbiamo uno del 1980 e un altro del 1983, ma sei mesi prima. E molto bello a cappella questo brano che ci siamo ascoltati. Is She Really Going Out With Him? È veramente lei andata fuori con lui? Nell'ambito della musica di tutti i generi, oserei dire, ci sono nomi strani, ma la band che ci andiamo ad ascoltare adesso è uno dei più strani, secondo me. Rigorosamente, tre puntini, and you will know us by the trail of dead. Tre puntini, ci conoscerete noi tramite il percorso di morte, dei morti. Pare, almeno sembra, che questo nome incredibile sia derivato da un canto maya che è fra l'altro molto simile a un canto egiziano, sto parlando dei tempi antichissimi, e la band che ha preso questo nome arriva da Austin, Texas, ed è stata attiva dal 1994 al marzo scorso. Nel marzo del 2003 è messo un comunicato per dire che a causa di una serie di motivi che non vi sto a dire, gliela davano su, come si dice a Bologna. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è da un disco singolo, questo dopo cofanetti, doppi, eccetera, questo è un disco singolo, è stato registrato nel 2009 ed è un album che racchiude il meglio di questa band. E il pezzo che ho scelto per voi è registrato il 14 maggio del 2009, è un brano che si chiama Relative Ways, loro si chiamano And You Will Know Us by the Trail of Dead. Istrionico come sempre, Johnny Lydon, detto anche Johnny Rotten a seconda dei momenti, diciamo Johnny Rotten con i Sex Pistols, John Lydon invece con questi Public Image Ltd. che ci siamo ascoltati in questa registrazione effettuata al Zeche di Bochum, naturalmente in Germania, per la trasmissione televisiva che si chiama Rock Palast. Era il 31 ottobre del 1983, questa band che è stata famosissima, oserei dire, è stata formata appunto da John Lydon dopo lo scioglimento dei Pistols e da Keith Levine, che era chitarrista originale dei Clash, ma se ne andò poco prima del primo album. E il tutto per questa band che ha vissuto... dal 1978 al 1992, poi John Lydon l'ha riformata nel 2009 ed è tuttora in giro a suonare e a portare avanti il verbo, per così dire, dei Public Image Limited. Il brano che ci siamo ascoltati, famosissimo, si chiama This Is Not a Love Song e, come ho detto, era il 31 ottobre del 1983. A concludere questa brevissima rassegna di registrazione effettuata in quel di Rock Palast, del Rock Palast trasmissione, arriva un chitarrista americano che si chiama Kenny Roy Shepherd. Viene dalla Louisiana, ha cominciato giovanissimo a suonare in giro per gli Stati Uniti. Il suo primo album è del 1995, quando lui era solamente diciottenne. Lui ha registrato questo album, che è un combo DVD più CD, che è uno dei pochi ad avere un titolo. Quasi tutti questi che ci siamo ascoltati si chiamano semplicemente Live at Rock Palast. Questo invece è Straight to You Live, direttamente a voi dal vivo, ma è stato registrato appunto in occasione di un concerto di Rock Palast al nome incredibile Leverkusener Jazz Stage Festival a Leverkusen, naturalmente, sempre in Germania. Era il 7 novembre del 2019. Il pezzo, uno dei grandi classici di questo eccezionale chitarrista, si chiama Blue and Black, Blue on Black, Kenny Wayne Shepherd. Wrong. Can't be horn song. Tears on a river, bitch on the shore, it don't mean much. Joker on check, match on the fight, girl on ice, a good master, whisper on the screen. Doesn't change a thing, don't bring you back. We'll be right back. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi 20 settembre 2023, Città Fujiko Live Club, seconda parte che inizia sempre con la novità che vi propongo in ogni trasmissione. Questi erano i 30 Day Special, una uscita discografica molto recente ma che riguarda un concerto del 29 agosto del 1981 in quel di Lorelei in Germania e trasmesso poi nella trasmissione Rock Palace, del quale abbiamo diffusamente ascoltato nella prima parte della trasmissione. Nella seconda invece arriva come sempre Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e mai come oggi così, così densa. Infatti, siccome il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade, oggi abbiamo 7 decadi, ripeto, 7 decadi, per cui velocissimamente andiamo con una registrazione del 1960. Come alcuni di voi sapranno, mi piace a volte esulare da quello che è l'ambito della musica rock in senso stretto e avventurarmi in territori jazz che sono per me abbastanza sconosciuti ma che in realtà mi piacciono molto. Qui siamo con un grande personaggio della musica jazz, si chiamava purtroppo George Russell, era un pianista che veniva da Cincinnati, Ohio, anche se in realtà lui iniziò suonando la batteria. Poi a un certo punto si ammalò di tubercolosi, fu internato in un ospedale per lungo tempo e in questo lungo tempo studiò teoria e composizioni e iniziò a suonare il piano. Infatti lui è considerato uno dei grandi teorici della musica jazz. E nel 1964, disgustato dai problemi razziali che c'erano negli Stati Uniti, se ne andò in Scandinavia, però ritornò qualche anno dopo per andare a insegnare al conservatorio di Boston. E, come dicevo, è considerato uno dei grandi teorici della musica rock, ma era anche un grande pianista. Lo dimostra questo album che si chiama The Five Spot. Il Five Spot era un locale che era situato a New York City e il pezzo che ci andiamo ad ascoltare da questa registrazione si chiama 121 Bank Street. Lui è George Russell. Il disco è accreditato a George Russell Sextet, ad essere sinceri, ma appunto il leader era questo pianista di Cincinnati, Ohio, che si chiamava George Russell. Il pezzo di questo, tratto da questo album, si chiama At the Five Spot, si chiama 121 Bank Street ed è stato registrato il 20 settembre del 1960. Facciamo un salto di 19 anni, arriviamo al 1979, entriamo in territori più consoni, diciamo, a questa trasmissione, più usuali, per meglio dire, a questa trasmissione che, lo ricordo, si chiama Città Fujiko Live Club. Abbiamo in scena un grandissimo chitarrista, purtroppo anche lui ci ha lasciato ormai tanti anni fa, e iniziò la propria carriera con i Taste, con cui suonò dal 1966 al 1970. Lui veniva da Ballyshannon in Irlanda. Naturalmente sto parlando di Rory Gallagher, che purtroppo a un certo punto della carriera, avendo paura di volare per andare in volo, appunto per fare tournée, concerti, siccome doveva volare, ha iniziato a prendere un sacco di medicine, un po' troppe. Queste medicine, un po' troppe, combinate al bere un po' troppo, hanno portato al suo problema principale, che è stato quello del fegato, che poi l'ha portato alla morte nel giugno del 1995 all'età di solamente 47 anni. BBC Sessions è un doppio album che pubblicato postumo naturalmente, un album in studio e l'altro dal vivo, registrato in diverse occasioni. Quello che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Venue di Londra nel 1979. Era un locale che era la prima cosa di Londra che vedevi quando uscivi dalla Victoria Station, era proprio su quella piazza lì. Prima però voglio dirvi che Rory Gallagher sarà protagonista di uno dei prossimi, delle prossime novità che vi proporrò qua, fra qualche settimana, perché è uscito un suo bellissimo album che si chiama Live in London. Ma qui torniamo indietro, siamo sempre a Londra naturalmente, ma siamo nel 20 settembre del 1979. Il pezzo si chiama Cruise On Out, lui è Mr. Rory Gallagher. funambolico finale di concerto da parte di Rory Gallagher in quel del Venue di Londra. Siamo al 20 settembre 1979, il pezzo, come dicevo prima, si chiama Cries on Out e fa parte di questo doppio dischetto BBC Sessions, un dischetto in studio e l'altro dal vivo registrato qua e là. Questo appunto era registrato nella giornata odierna, un tot di anni fa, non riesco nemmeno a fare il conto. Doveva ripartire, ma non è ripartito, forse eccolo qua. Giusto per avere un po' di sottofondo mentre introduco pomposamente la prossima canzone che ci andremo ad ascoltare, che è una registrazione del 1984 da parte di una band che non è propriamente fra le più conosciute al mondo. Si chiamano tuttora Television Personalities, la band personale, diciamo così, di un chitarrista cantante che si chiama Dan Treacy. La band è stata attiva dal 1977 al 1998, poi ha avuto una piccola interruzione, ripresa l'attività nel 2004 fino a tutt'oggi, come vi dicevo. L'interruzione fu causata dal fatto che Dan Treacy non se la passava tanto bene e era drogato marcio, diciamola così, e fu incarcerato perché aveva rubato qualcosa per fare su un po' di soldi per comprarsi la roba. E dopo però pare che nel 2004, quando uscì di prigione, fosse pulito e appunto ha ripreso l'attività. Television Personalities è una di quelle band che sono molto molto considerate dalla critica, ma che hanno un successo commerciale veramente, non dico infimo, ma praticamente infimo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama King and Country ed è il brano di apertura di quel concerto del 20 settembre del 1984 in quel del Forum di Anger, e siamo ancora in Germania, e l'album si chiama Chocolate Heart e si apre con questo appunto King and Country Television Personalities. questa è un'altra grande band, si chiamano Faith No More, vengono da San Francisco, anche loro hanno avuto qualche interruzione ma sono attivi dal 1979 fino ad oggi. Il grande successo è arrivato con il loro terzo album che si chiama The Real Thing e guarda caso è il primo album con il cantante che è cambiato, il nuovo cantante si chiama Mike Patton, che forse qualcuno di voi conoscerà perché negli anni 90, nei primi anni 90, ha sposato un'artista bolognese che si chiama Cristina Zuccatosta ed ha vissuto a Bologna per qualche tempo, diciamo che nella prima metà degli anni 90, finché è durato il matrimonio, lui si destreggiava fra Bologna e San Francisco, non male come cosa, e ricordo anche un concerto che vedemmo qui a Bologna al Parco Nord, Faith No More mi sembra che aprissero per i Simple Minds, ma non sono sicuro, e a un certo punto lui, che parlava italiano, parli tuttora italiano benissimo, e iniziò a parlare con noi del pubblico in italiano, dando degli stronzi ai suoi compagni di gruppo che non capivano quello che diceva. Comunque questo è un aneddoto così un po' pazzo. E lui ha fatto anche diversi album ultimamente di canzoni italiane, alcune anche che lasciano il tempo che trovano, ma comunque è molto legato alla musica italiana. Il brano che ci siamo ascoltati, che si chiama Midlife Crisis, è stato registrato a DeKalb nell'Illinois il 20 settembre del 1992 fa parte di un doppio CD single che si chiama Everything's Ruined ed è una dimostrazione di quello che è la potenza dal vivo di questa band, come già lo era Live at Brixton. Consigliatissimo, soprattutto Live at Brixton. Calmiamo un po' le acque e andiamo un po' sul soft, sul chiamiamolo anche un po' jazz. La band, perché si tratta di una band, si chiama Shadei, esattamente come la cantante, però si tratta di una band che è stata attiva dal 1982, anche in questo caso con molte interruzioni, proprio a causa della carriera solista della cantante Shadei, appunto, che è nata in Nigeria ma è cittadina britannica, fra l'altro ha fatto anche la modella, anche l'attrice, insomma è una bellissima donna, un'ottima cantante per quel che riguarda il suo genere. Quest'album si chiama Lovers Live ed è stato registrato al Arrowhead Pond di Anaheim in Los Angeles il 20 di settembre del 2001. Il pezzo che ho scelto per voi è famosissimo, non ha bisogno di presentazioni, si chiama Smooth Operator. Un grandissimo successo mondiale, questa Smooth Operator di Sade. E il tutto è stato registrato il 20 settembre del 2001 in quel di Anaheim, che è uno degli agglomerati urbani che formano l'enorme e immensa Los Angeles. Prendete un po' di musicisti, esattamente Mike Portnoy, batterista ex Dream Theater, scusate, Dave LaRue, ex bassista di Dixie Grease, Casey McPherson, cantante con una carriera solista in proprio, Neil Morse, tastierista e cantante tuttora in forza agli Boxbird, Steve Morse, suo fratello, chitarrista famoso con i Dixie Drags ma ancora di più con i Deep Purple. Insieme formano un super gruppo che si chiama Flying Colors. Si trovano ogni tanto, fanno mini tournée soprattutto qua in Europa, dove sono famosissimi, soprattutto in Olanda, dove è stato registrato questo album, che è il primo di tre album live che compongono, fanno parte anzi della loro discografia. Si chiama non a caso Live in Europe ed è stato registrato all'Hall 13 di Tilburg in Olanda il 20 settembre del 2012. Il pezzo che ho scelto per voi è una ballata, forse un tantinello menensa, ma poi vi spiegherò il motivo. Il motivo è che è uno dei pezzi più corti di questo album. Love is what you're waiting for è il brano che ci andiamo ad ascoltare. Loro sono Flying Colors. That's all you need, love. Love is all you need. Well, welly. We have a little bit of a dilemma tonight. We only have one album to choose from. And I know you guys expect. E qua inizia un lungo discorso da parte di Kevin MacPherson, Casey MacPherson, che è il cantante, ma il brano che ci siamo ascoltati, che volevo farvi ascoltare, si chiama Love is What I'm Waiting For, l'amore è ciò di che sto aspettando. E Flying Colors Live in Europe, l'album, il tutto registrato a Tilburg in Olanda, esattamente il 20 settembre del 2012. Come dicevo, non abbiamo ancora finito, ma alla fine avremo passato in rassegna 7 decadi di musica. Siamo partiti dal 60 e arriveremo al 2020 con la registrazione che conclude Ricordi Today di oggi, ma anche Città Fujiko Live Club. Prima però, appunto, vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko e naturalmente sul web tramite l'apposita app radiocittafujiko.it che potete scaricare appunto da questo sito. Andiamo a concludere quindi con Brad Meldau, grande pianista che arriva da Jacksonville in Florida come il 3DA Special, titolari della novità che vi ho proposto quest'oggi, ma è tutta un'altra storia, perché Brad Meldau è un jazzista, chiamiamolo così, anzi lui fa un po' di tutto, ecco. Infatti in questo album, che si chiama Your Mother Should Know, paga un tributo ai Beatles, perché sono tutte canzoni dei Beatles a parte una, quella finale, che è di David Bowie. È stato registrato a Parigi alla Philharmonie de Paris in Francia, naturalmente il 20 settembre del 2020, e ce l'andiamo subito ad ascoltare. Intanto vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento mercoledì prossimo, stesse modalità d'uso, stesse frequenza, stesse cose. Ciao a tutti da Nevio, Brad Meldau.